apri la bocca, frate, mi tappi le ali, sogno astri, stelle, sole, congiunzioni astrali, pensieri estratti da fatti astratti, privi di scopo dove archi senza astrali, creano colori sonori, archi travi, e se mi sfogo do vita ad un mondo invisibile, no telescopio, felici, felici, perché senza fuoco io pianto nel suolo parole stupende le quali radici traducono stesse imperfette, gene di loto. Partecipi nei participi, se siamo persi perché vinti dagli eventi, qua ne guadagnano angeli tristi, qua ne guadagnano solo i baristi, l'alcol contro i sensi, genera controsensi, mai visti, tipo spartiti di musicisti che sognano regine senza re.